Elementare, Watson. La scienza risponde alle vostre domande. Di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Beh, questa dovevamo aspettarcelo. Prima o poi sì, prima o poi i detti popolari arrivano. E questa volta è arrivata dalla Roberta, la Roberta di Milano. Che ci chiede? Buonasera, mi piacerebbe sapere se fosse vero il detto "can che abbaia non morde". Grazie. Sì, ma ci sarà un cane che abbaiando dopo ha morso. Giada Cordoni, benvenuta. Salve a tutti. Ecco, la nostra esperta etologa del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa ci deve spiegare: il can che abbaia morde? Almeno in un caso. Qualche volta può succedere, però non sempre. In realtà, l'abbaiare, che cos'è? È un gioco per il cane? È un verso? Deve far sentire la sua voce? Allora, diciamo che il can che abbaia molto spesso non morde, nel senso che in realtà la comunicazione vocale dei cani è spesso legata anche alla postura, alle posizioni del corpo, alle posizioni della coda, alle posizioni delle orecchie. Quindi molto spesso in realtà l'abbaio, diciamo così, o il ringhio sono associati a delle particolari posizioni del corpo che ci dicono se in realtà è un gioco, se è una cosa un po' più seria o se è anche una cosa neutra, diciamo così. Quindi bisogna distinguere un po' il tono, come negli esseri umani. Bravissima, bisogna distinguere un po' il tono e guardare anche un po' la posizione. Come negli esseri umani si guarda il viso quando si dicono le cose o gli occhi, in loro bisogna guardare la posizione. Quindi molto spesso, per esempio, il cane, a differenza ad esempio dei lupi e quindi dei loro parenti selvatici, nei cani, per esempio, l'abbaio è spesso legato a un comportamento che si chiama play bow, che è un inchino che loro fanno durante il gioco. Play bow? Play bow, che vuol dire inchino per gioco, tradotto letteralmente sarebbe questo. Quindi loro abbassano le zampe anteriori, si stendono come in un inchino, di solito scodinzolano e spesso c'è l'abbaio associato a questo comportamento. In questo caso chiaramente non è un non è certo attivo. Ma in fondo anche negli umani, non so, Chiara, sarei d'accordo, ci sono chiaramente un sacco di situazioni dove la voce si alza, ci sono, ma si capisce che non è, non c'è l'aggressione. E in fondo invece quando c'è l'aggressione è silenziosa, perché si è, come dire, concentrati sull'agguato, sull'aggressione. In un certo senso può essere anche così anche per loro. Per esempio, quando i cani, come anche i lupi, sono in una situazione di forte stress e quindi di possibile aggressività, ad esempio una cosa che fanno, come fanno tantissimi altri animali, è quella di rizzare il pelo per sembrare più grossi, è quella di stare tesi, con la muscolatura molto tesa, con la coda spesso dritta o parallela, e quindi già quelli sono segnali. Mostrare i denti, ad esempio, questi sono segnali che ci dicono che allora in quel caso il can che abbaia morde. Quindi esatto, quindi il detto, diciamo che andrebbe un po' migliorato, can che abbaia spesso non morde, ma qualche volta, oh, occhio che morde. Qualche volta può succedere, però bisogna sempre guardare anche il contorno, non soltanto la vocalizzazione. Guardare al corpo, se è molto teso, fermo, col digrignare dei denti, lì invece butta male. Esatto. Il gatto invece, quando sta per litigare, fa dei versacci micidiali, no? Anche il gatto fa dei versi un pochino strani, sono dei miagolii, però senti, sono dei miagolii molto tesi, e se noti anche lì, in quel caso c'è un'erezione del pelo, la muscolatura è molto tesa, tendono magari a acquisire una posizione sulle quattro zampe, ma molto tesa, ferma, con gli occhi fissi in un punto, quindi c'è anche proprio un fissare al possibile avversario o al possibile, diciamo così, contendente, quello che vuoi. Quindi in realtà sì, vocalizzazione, ma però noi gatto che abbaia non l'abbiamo come domanda. Chissà però come è nato questo detto. Forse anche l'esperienza, perché in fondo la domesticazione del cane risale, secondo nuovi studi, a 15.000 anni fa, e forse ancora di più, sembra che ci siano delle evidenze intorno ai 40.000 anni fa. Penso e quindi molto probabilmente l'esperienza dei primi uomini che hanno cominciato a convivere con questi lupi, diciamo così, più miti, più docili, hanno forse anche imparato e capito che il segnale vocale va sempre un pochino associato anche al segnale corporeo, no? Sì. Come succede anche nell'uomo. Per esempio, nell'uomo non tutti i sorrisi sono sorrisi reali e spontanei, no, certo. Sono dei sorrisi di circostanza. E poi questo detto viene utilizzato per gli uomini quando c'è una persona un po' burbera, che è un po' aggressiva, però dici no, abbaia ma non morde, in fondo è un bonaccione. È bravissima, è come si dice anche tutto fumo e niente arrosto, ecco. Giusto, giusto. Ci hanno fatto questa domanda? No. Ancora no, questa ancora no. Va bene, grazie. Buon lavoro. Grazie, grazie, ciao. Fate come la Roberta di Milano, scriveteci a elementare@radio24.it, perché Federico, noi rispondiamo a qualsiasi cosa. A qualunque domanda. Per esempio, come è noto, nella ricetta del facocero alla matriciana non si può usare la melanzana, perché il facocero è allergico alle melanzane, anche da morto. La carne resta dura. Ma si può usare il peperone, perché anche il peperone è della famiglia delle solanacee. Elementare, Watson.